Allora, les amis, benvenute e benvenuti alla tappa numero 19 del Tour de France 2024 e di Extra Extra, il nostro mio mini podcast che oggi temo rischi di essere un po' meno mini perché ho preso un bel po' di appunti e vi porterò in territori elevati, diciamo. Questa è una puntata che viene registrata, come tutte le altre, intorno ai 280 metri sul livello del mare, quindi non gioco esattamente nel campo in cui andiamo a parare oggi, perché oggi chiaramente è stata la giornata in cui il Tour de France ha toccato il suo punto più alto. Il Gran Premio della Montagna della Bonnette, hors catégorie, souvenir à Ride de Grange, 2802 metri sul livello del mare. Vinto, come avete visto, da un uomo d'alta quota come Richard Carapaz, che però poi non è riuscito a difendere il suo attacco per la vittoria di tappa, che tanto per cambiare è andata a Tadej Pogacar, che anche oggi ha fatto un gioiellino e anche oggi ci possiamo così riconciliare con gli dei del ciclismo. È stata quindi la giornata del punto più alto del Tour e di questo volevo parlarvi, anche se onestamente per quanto mi riguarda, prima cosa, non sono un uomo da grandi altezze come avrete capito e devo dire che quando mi si dice Bonnette io più che alla salita penso alla discesa, che era l'ultima volta che il Tour è passato di qui, il 2008, una delle scene più grottesche che io ricordi al Tour de France, con John Lee Augustin che dopo aver vinto il GPM, era la Cuneo Josier la tappa, appena iniziata la discesa cadde e è una discesa con ampie vie di fuga, per cui lui fece un dritto in curva, finì nel ghiaione e racconta di aver pensato di morire, ma in realtà non è stata una caduta pericolosa, è stata una caduta veramente così bizzarra, sembrava una scena del Benny Hill Show con lui che dal ghiaione cercava di risalire a quattro zampe ma con le scarpette da bici oltretutto. Su quella pendenza del bordo strada chiaramente era impossibile sui detriti, tanto che fu uno spettatore a scendere e a spingerlo sul culo, proprio a dargli una forte spinta sul culo. Lui ritornò alla strada, non solo la sua bicicletta che è rimasta lì, non penso sia lì oggi, non l'ho vista nella diretta, qualcuno poi l'avrà recuperata, sarei stato curioso. Ma non parliamo di storia quest'oggi, parliamo di geografia, se vogliamo. Diciamo, la più alta cima del Tour e non fermiamoci qui. Io sono andato sulla pagina Wikipedia che raccoglie le strade più alte d'Europa, che sono le strade appunto che raggiungono i più elevati valori di altitudine misurata chiaramente sul livello del mare. Se prendiamo le asfaltate, vi dico le prime 5, al quinto posto c'è lo Stelvio, che è a 2758 metri sul livello del mare, quarto l'Iseran, 2770, è il più alto valico aperto al traffico, benché ovviamente per 6 mesi all'anno. Al terzo posto, sempre in Francia, appunto la cima della Bonnette, 2802. In realtà mi spiega Wikipedia che il suo punto più alto non è da considerarsi un valico perché l'omonimo colle è più in basso. È comunque una strada che si può raggiungere da entrambi i lati, come abbiamo visto quest'oggi. Secondo posto la Ötztaler Gletscherstrasse in Austria, 2830 metri. C'è arrivato il Giro della Svizzera del 2015, ha vinto Pinot davanti a Pozzovivo e Spilak. Ma al primo posto c'è il Pico del Veleta, assolutamente imbattibile, Sierra Nevada, Spagna. Parte da Granada, sono 42,4 km di ascesa tendenzialmente stabile sul 6,5% e arriva a 3.384 metri. E ci chiediamo com'è che la Vuelta non l'ha mai fatto con questa sua ricerca dell'estremo. Ci ha provato, è arrivata più volte più in basso. Ci ha provato nel 2022 ma fu bocciata dall'amministrazione locale perché fortunatamente c'è chi fa rispettare delle tutele e nel Parco Nazionale della Sierra Nevada è vietato disputare eventi sportivi. Fatto sta che ci stanno riprovando per stabilire questo record nel 2025 o 2026. Ci sono però dei problemi logistici e pure di sicurezza, perché chiaramente è una quota estrema per il corpo umano. Poi ci sono ovviamente le strade sterrate, che come sapete secondo gli ultimi decreti governativi adesso bisogna chiamarle gravel, ovvero le strade ghiaiose. E qui vi potrei dire la top 5, vi dico le prime tre, vi dico il podio. Anche se, dai, vi dico le prime 5. Prima c'è Bormio 3000, che è una stazione sciistica a 3011 metri. C'è il Chaberton, che è la strada militare di Valmorino in Val di Susa, 3131. Terzo c'è il Gornergrat sullo Zermatt in Svizzera, 3135. E poi ci sono il Col du Gendry, che è sopra le Des Alpes, a 3158, che sono 15,5 km all'11 di media con punte al 16. Ma la più alta in assoluto è la Gobba di Rollin sulle Alpi Pennine tra Val d'Aosta e Svizzera, che arriva a 3882 o 3911, non c'è neanche chiarezza sulle misurazioni. È più un sentiero che una strada, ma è stata raggiunta anche da una Jeep. Poi è chiaro che se inseriamo le Jeep possiamo andare ovunque. Il punto più alto d'Europa è il monte Elbrus nel Caucaso in Russia, però non le consideriamo strade nemmeno sterrate, sono 5642 metri. Vi consiglio, perché mi ci sono perso un po', di spizzicarvi un po' il sito Dangerous Roads, che mi ha divertito molto. Ne ho scoperte tante altre in Turchia, sempre nel Caucaso, in Russia, e poi sono tutte quelle fuori Europa. Non posso non citare la strada asfaltata più alta del mondo, Lumling La Pass in India, nel Ladakh, 5799 metri, è più in alto del campo base dell'Everest. Oggi vi avevo detto che sarei andato lungo e quindi lo faccio, scusatemi, ma ci tengo ad aggiungere un altro pezzo. Perché cosa vuol dire quanto è alto? Io qui vi ho detto, mi fido del cartello che dice 280 metri che c'è nel primo tornante sopra casa. Così è un gesto di fiducia. In realtà ci sono tanti studi dietro, ovviamente. È una domanda che ha affrontato quest'oggi GeoTDF. Ci tengo a parlarne perché chi ci segue da anni ha seguito i nostri podcast Bonjour e Bonsoir Bidon ricorderà quanto io e Michele ci divertivamo a seguire questi progetti laterali tipo il Tour de France della biodiversità, la Geologie de Tour de France. Anche al giro spesso c'erano nel pre-tappa queste incursioni scientifiche, e GeoTDF è un account Twitter che ha creato anche un blog, GeoSports, segue quasi tutta la stagione, c'è anche la geologia delle classiche, e ci tengo a menzionarli, creato da Douwe van Hinsbergen, che insegna all'Università di Utrecht, dove insegna anche la sua socia Marjolien Naudet, mentre la revisione ciclistica dei testi è della bravissima giornalista nederlandese José Ben. Il pezzo di oggi invece è scritto da Michael Bunz della Utah Valley University e ci parla appunto cosa significa, quanto è alto un punto, si fa questa domanda e ci spiega qualcosa di più che mi interessa condividerlo con voi, tanto se vi siete già annoiati avete già schiacciato stop. Allora, ci sono due metodi principali per misurare l'elevazione. Uno è il GNSS e l'altro è il barometro, l'altimetria barometrica. GNSS si riferisce a GPS, lo conoscerete tutti, è un sistema militare degli Stati Uniti che è basato su un set di satelliti che trasmettono dei segnali e praticamente si fa una triangolazione, non è precisissima, precisione va da 1 a 10 metri. Le altezze però, le altezze sono facilmente più o meno calcolate perché i satelliti orbitano attorno al centro di massa della Terra. Poi vabbè, ci sono chiaramente diversi tipi di correzione. Gli altimetri barometrici sono un sistema molto più antico, ma non per forza meno preciso, perché misurano la pressione dell'aria e la convertono in altitudine. Come sapete, salendo di quota, la pressione dell'aria diminuisce anche drasticamente, no? Questi dispositivi rilevano la variazione di altitudine anche di 1-2 metri. Il problema è che su cosa si basano? Su un set generico di valori, che è l'atmosfera standard. Le misure barometriche sono anche precise, ma i valori non combaciano sempre con gli standard. Questi sono i due sistemi di misurazione, ma c'è una domanda che va ancora più alla base di questo ragionamento, ovvero cos'è la quota? Cos'è l'elevazione? Noi di solito siamo abituati a una formula, sopra il livello del mare, che è una cosa che però ha senso quando si è sul mare, sulla costa o in prossimità della costa. In montagna si deve nuovamente approssimare, e approssimare anche molto. Di solito si utilizza l'ellissoide, che segue un'elevazione media e uniforme, proietta, diciamo, l'elevazione del livello del mare su un ellissoide che rappresenta il mondo. Il problema è che il mondo non è un ellissoide e soprattutto che la densità terrestre e quindi il livello del mare non è costante. E dunque è necessario adattarlo perché la gravità varia parecchio in base allo spessore, alla densità, e bisogna ricorrere a una scienza che è la geodesia. Ed è di questo che parla oggi GeoTDF. La geodesia è la scienza che misura e rappresenta, diciamo, la Terra, il suo campo gravitazionale, i fenomeni geodinamici, ed è la scienza che ha creato, diciamo, il geoide, che è la forma che si studia come forma della Terra, che è appunto questo ellissoide deformato, schiacciato ai poli, l'avrete visto e studiato tutti quanti. Sulla Bonnet il geoide, per esempio, è a 54,3 metri sopra l'ellissoide. Ora, se non usassimo un ellissoide o un geoide, potremmo trovare altri metodi. Un esempio potrebbe essere misurare l'elevazione sul centro della Terra. Il problema è che anche in questo caso la storia cambierebbe molto. Ad esempio, la cima della Bonnet è a 6.370.545 metri sul centro della Terra, mentre lo Stelvio, ad esempio, 6.369.681 metri, sarebbe più basso di 864 metri della Bonnet. È un argomento complicato, è un argomento però interessante che mi fa piacere raccontare e dare spazio anche agli studiosi di GeoTDF. E infatti in conclusione voglio leggervi la conclusione del loro articolo. La geodesia influenza anche il modo in cui misuriamo le lunghezze. Gli scienziati francesi erano all'avanguardia della geodesia durante il Rinascimento. Negli anni 90 del Settecento misurarono attentamente la distanza da Dunkerque a Montjuïc, vicino a Barcellona. Da questa stimarono la forma dell'ellissoide e la distanza del polo nord all'equatore passando da Parigi. La lunghezza di un metro fu quindi ufficialmente definita come un decimilionesimo di quella distanza. Il metro originale è conservato presso il Bureau International des Poids et Mesures a Sèvres, in Francia. La tappa numero 19 attraversa il punto più alto del Tour de France di quest'anno e una delle strade più alte d'Europa. Senza la geodesia non saremmo in grado di dire quanto è alta la Bonnette. La geodesia ci ha anche dato la lunghezza di un metro. Non solo le altitudini dei passi del Tour dipendono da questo, ma anche il modo in cui misuriamo la lunghezza delle tappe. Semplicemente non esisterebbe un Tour de France senza scienza. Questa è fondamentalmente l'idea che sta alla base di GeoTDF, in poche parole. Ecco, a Bidon noi non ci occupiamo di scienza, ma ci occupiamo di come la corsa si interseca col mondo, con chi lo ha raccontato, lo ha immaginato, lo ha anche misurato, quello sì. E allora mi fa piacere leggere così questa visione del Tour de France e di come lo si possa raccontare, perché credo che collimi parecchio con la nostra. E con questo so di essere andato molto lungo quest'oggi, me ne scuso, vi do appuntamento a domani, forse, non so se ce la faccio, se non ci sono domani ci sarò dopodomani, lasciamo questa cosa nel mistero e au revoir.